Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo, le opportunità nel sistema accademico anglosassone, con un focus particolare sulla Gran Bretagna, saranno al centro della puntata odierna, che vedrà la testimonianza di una nostra giovane docente in arte classica. Dopo una formazione tra Stati Uniti e Regno Unito è tornata oltre Manica e oggi è qui a dispensarvi preziosi consigli su come seguirne le mosse per un futuro professionale all'interno delle università di lingua inglese. Primo appuntamento dell'anno con la collega del Sole 24 Ore Francesca Barbieri, che anche oggi approda sulle nostre frequenze con segnalazioni imperdibili su opportunità all'estero per voi giovani all'ascolto. Mentre in Job Abroad tornano le offerte di impiego in Europa grazie al network di Eures Italia. A chiudere andremo ad approfondire un recente studio sui numeri della nuova immigrazione italiana e del costo che questa comporta per il nostro paese. Sono cifre, credetemi, davvero elevate. Brexit o non Brexit, è il momento di partire per il Regno Unito. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana arriva da uno studio Movinga che ha recentemente effettuato una ricerca mirata a calcolare i guadagni stimati per i paesi europei considerando l'afflusso di lavoratori altamente qualificati da altre nazioni del vecchio continente. Guadagni che si traducono sia in maggiori entrate fiscali sia in risparmi per il settore educativo. Ebbene, la Gran Bretagna è il paese che al momento ne beneficia maggiormente, con un guadagno stimato pari a 24 miliardi di euro in un decennio, seguita da Germania e Francia. Italia quinta in classifica con quasi 7 miliardi. Toolbox. A Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi utile a orientarvi nel mondo del lavoro internazionale, tornano i consigli pratici del Sole 24 Ore. Ascoltiamo allora cosa ci riserva il menù odierno insieme alla collega Francesca Barbieri. Buon pomeriggio, Francesca. Buon pomeriggio a tutti. Allora, Francesca, oggi ci porti una bella novità, perché usciamo un po' dal seminato dei bandi, dei tirocini, eccetera, per parlare per la prima volta nella tua rubrica di una summer school che avrà per destinazione un paese a noi vicino, e cioè la Svizzera. Dove si terrà la summer school e di cosa si tratta? Esatto, la destinazione è la Svizzera e questa summer school avverrà all'interno del CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, che si trova a Ginevra. Quindi per i ragazzi iscritti all'università c'è la possibilità di frequentare questa summer school, che ha una durata variabile dalle 8 alle 13 settimane. Summer lo dice tutto, quindi che mesi saranno all'incirca? Sì, allora i mesi sono da giugno a settembre. A chi è rivolta questa summer school? Perché uno dice CERN e pensa immediatamente ai ricercatori, no? Ai fisici. E invece no, non è rivolta solamente a... No, è rivolta agli studenti universitari. Come tutti sappiamo, il CERN è il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, e però dà questa possibilità agli studenti triennali o magistrali in indirizzi legati alla fisica, all'informatica, all'ingegneria e alla matematica di candidarsi per partecipare a questa summer school. Immagino le lingue saranno comunque importanti. Allora, è fondamentale possedere una buona conoscenza della lingua inglese, e la conoscenza del francese è considerata un vantaggio, quindi è un requisito preferenziale per chi presenta la propria candidatura. E c'è anche un dettaglio interessante che mi citavi poc'anzi prima di cominciare a parlare di questa summer school, cioè il fatto che si va a studiare ma si viene anche pagati per questo. Sì, esattamente, è prevista una retribuzione giornaliera di 90 franchi, che sono quindi poco più di 80 euro. È previsto il pagamento del viaggio per Ginevra, c'è l'assistenza nella ricerca di un alloggio nelle vicinanze del CERN e l'assicurazione sanitaria. Allora, fossi io uno studente universitario con interessi relativi appunto all'ambito della ricerca e della fisica, anche se non strettamente fisico o ricercatore, mi ci butterei, a dire la verità, però c'è come sempre una scadenza entro la quale occorre candidarsi. Poi diciamo anche dove candidarsi. Cominciamo però a dire entro quando. Sì, allora la scadenza è il 31 gennaio 2020. Quindi è necessario inviare il proprio curriculum e il sito di riferimento è om.cern. Qui si trovano tutte le informazioni con, diciamo, tra virgolette, il bando per candidarsi a questa summer school. Il testimone. La testimone della settimana è una giovane assistant professor di arte greca e romana alla University of Nottingham. Tiziana ha completato la propria formazione classica tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti presso prestigiose università anglosassoni prima di trovare un'opportunità oltre Manica. Oggi è qui non solo a raccontarci di cosa si occupa, ma anche a spiegare a voi come approcciare il sistema accademico britannico in tempi di Brexit. Buon pomeriggio, Tiziana D'Angelo. Buon pomeriggio a te, Sergio. Laurea in antichità classiche orientali, master e PhD in archeologia classica tra Oxford e Harvard, una formazione ai massimi livelli. La tua, Tiziana, le tue esperienze comprendono anche Berlino e New York, insomma una vera globetrotter. Attualmente di cosa ti occupi? Io mi occupo di archeologia mediterranea, ho lavorato molto in Italia meridionale, soprattutto su archeologia funeraria e pittura antica, e devo dire che tra l'altro la mia esperienza di espatriata si fa sempre sentire un po' nella mia ricerca, tant'è vero che ora il mio prossimo libro sarà sulla pittura classica, sulla Via della Seta, quindi proprio pensando a come l'arte e la cultura mediterranea viaggiassero per il mondo già in antichità. Ricordiamo che nel 2019, l'anno scorso, hai vinto il premio Ghislieri a Pavia e nel tuo curriculum figurano, oltre alla parte accademica, campagne di scavo, mostre e documentari. Quali i più importanti? Tra gli scavi sicuramente le campagne in Turchia con la spedizione archeologica di Harvard e per l'esperienza curatoriale e documentari sicuramente il lavoro nei grandi musei americani, quindi la Getty Villa di Los Angeles e il Metropolitan Museum di New York, e per i documentari ho partecipato ai documentari della BBC sulla città antica, e devo dire che insomma un po' tutte queste esperienze mi hanno aiutato a imparare a raccontare la mia ricerca in un modo nuovo, quindi valorizzando proprio semplicità e accessibilità di toni e contenuti. Tiziana, con te vorrei passare subito ai consigli imprescindibili per giovani aspiranti docenti o ricercatori, perché l'abbiamo ascoltato, il tuo percorso può insegnare tantissimo. Partirei dalla scelta di una formazione internazionale da Pavia, dove eri studentessa al Collegio Ghislieri, sei prima partita per la Gran Bretagna, poi per gli Stati Uniti. Allora, come cercare opportunità di master all'estero? Beh, innanzitutto occorre muoversi per tempo, e con questo voglio dire un anno di anticipo. Le domande di ammissione si presentano durante l'inverno dell'anno precedente all'inizio del corso. Il punto di partenza è quasi sempre internet, e qui il problema è la mole di informazioni a disposizione, quindi io consiglio di domandarsi cosa si voglia effettivamente ottenere dal master. Se si cerca un'esperienza all'estero con l'idea di proseguire con una carriera non accademica, allora consiglio proprio di privilegiare magari il prestigio dell'università rispetto alla scelta magari di un relatore di tesi ideale. Se invece si guarda al master come preparazione per una futura carriera accademica, allora darei più peso alla scelta di un'università in cui si possa lavorare con i migliori esperti del proprio settore. Un analogo ragionamento si può fare per il dottorato, oppure i consigli qui sono diversi? A livello di tempi sempre la stessa cosa, quindi muoversi con un anno di anticipo, tenendo conto che un'application di dottorato può richiedere tranquillamente un paio di mesi per prepararla. Ricorderei anche che, diversamente dall'Italia, in Inghilterra o in America i professori non assegnano un progetto di ricerca ai dottorandi, e c'è proprio l'aspettativa che lo studente abbia almeno un'idea generale dell'argomento su cui vuole fare ricerca, e soprattutto che abbia un question based approach, cioè delle chiare domande che guidino insomma il suo progetto di ricerca. E consiglio poi di contattare i relatori nella fase di preparazione della domanda, è una prassi molto comune e i professori sono disponibili. È molto interessante considerare le borse di studio di cui tu hai usufruito. Come approfittarne, insomma, dove cercarle e quanto possono coprire in percentuale? Assolutamente essenziali sia a livello finanziario sia per il prestigio che portano con sé. Allora, in America il dottorato è generalmente finanziato per tutti gli studenti ammessi con delle borse che coprono tasse universitarie, assistenza sanitaria e che forniscono anche uno stipendio mensile piuttosto generoso. In Inghilterra invece l'ammissione a un programma di master o di dottorato non garantisce l'assegnazione della borsa e si deve fare domanda separatamente, e qui ci sono delle borse bandite dai Council Nazionali di Ricerca, da fondazioni private come la Gates Cambridge Foundation, o delle borse più specifiche bandite da ciascuna università o college, e l'entità della borsa varia, può coprire solo le tasse universitarie o anche fornire una quota per le spese di mantenimento. Parlando invece di ricerca di lavoro all'interno degli atenei britannici o anche statunitensi, insomma anglosassoni, dove cercare le offerte? Ci sono dei siti di riferimento imprescindibili? Dunque, allora, sempre la questione di muoversi con un anno di anticipo. Suggerisco di affidarsi a siti come jobs.ac.uk per l'Inghilterra o il Times of Higher Education, ma anche dei forum come Academic Jobs Wiki sono comunque molto affidabili. Inoltre, la maggior parte dei settori ha una propria mailing list che connette studiosi in tutto il mondo e su cui vengono postati regolarmente degli annunci di opportunità lavorative. Quindi c'è da scoprire quale sia quella del vostro settore e iscriversi quanto prima. L'application poi prevede ovviamente un curriculum. Ti chiedo come deve essere strutturato per lavorare in ambito accademico. Allora, non ha limiti rigidi di lunghezza, però deve essere chiaro e ben strutturato, quindi niente paragrafi di prosa, tenersi su una struttura in elenco puntato. Le sezioni principali sono appunto carriera professionale, formazione accademica, borse di studio, premi, finanziamenti, pubblicazioni, relazioni di convegno e esperienza di insegnamento, poi il resto da aggiungere a seconda del proprio profilo. E soprattutto citare dei referenti, chi devono essere? Allora, la lettera di referenza è un elemento chiave e ancora sottovalutato dai candidati italiani. Spesso l'errore è quello di credere che avere l'appoggio di uno studioso di peso sia sufficiente, però il problema è che il referee deve essere una persona che abbia un'ottima, dettagliata conoscenza del nostro percorso e del nostro lavoro. Quindi è necessario spiegare con degli esempi proprio concreti cosa renda brillante il candidato. Quindi il mio consiglio è di scegliere con cura i propri referees e di non avere timore di spiegar loro come funzioni il sistema di referenza anglosassone. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Tiziana D'Angelo, 36enne docente di arte greca e romana all'Università di Nottingham. Tiziana vi è approdata dopo una formazione a cavallo tra Gran Bretagna e Stati Uniti che l'ha portata in alcune delle principali università europee e nordamericane. Con lei affrontiamo il tema del lavoro all'estero per docenti di materie classiche e umanistiche, tasto spesso dolente nel bel paese, ma oltre confine le possibilità aumentano considerevolmente. Riprendiamo l'ascolto. Generazione Mobile. C'è una variabile importante per voi accademici italiani oltremanica, si chiama Brexit. Ormai è vicinissima, la consideri una minaccia non nel breve ma nel medio periodo e consideresti a un giovane collega di guardare ancora oltremanica per trovare lavoro in ambito accademico? Allora, la Brexit rischia di tagliare l'Inghilterra fuori da tutta una rete di finanziamenti europei e potrebbe creare dei problemi con i permessi di lavoro. C'è da dire però che le università si sono immediatamente mobilitate per tutelare i propri docenti e ricercatori. Io per esempio ho ottenuto la residenza permanente in meno di 2 settimane. Quindi per il momento la risposta è sì, consiglierei ancora ad un collega di venire a lavorare in Inghilterra, ne vale ancora la pena. Ci raggiunge ora in linea Giacomo Bardelli, postdoc presso il Römische Germanisches Zentralmuseum di Mainz in Germania. Buon pomeriggio Giacomo. Buon pomeriggio. Lettere antiche e archeologia a Pavia, anche tu come Tiziana al Collegio Ghislieri, un'esperienza in Erasmus proprio a Mainz dove hai proseguito con un dottorato. In Germania sei rimasto, di cosa ti occupi ora? Sono rimasto appunto dove ero arrivato già più di 10 anni fa. E in questo momento sto studiando una importante tomba dell'età del ferro italiana, la tomba della regina, dal sito di Sirolo in provincia di Ancona, una delle tombe più spettacolari mai rinvenute nella penisola italica e in tutto il Mediterraneo. E insomma, stiamo ascoltando che abbiamo veramente 2 testimoni d'eccezione fra te e anche Tiziana, e dai consigli anglosassoni di Tiziana a quelli teutonici con te Giacomo. Come cercare opportunità in ambito accademico, ti chiedo, in terra tedesca? Quali le città e le università più interessanti? Allora, dipende innanzitutto sicuramente da quando uno decide di muoversi per espatriare. Si può fare ovviamente nell'ambito di progetti Erasmus, o usufruendo di borse di studio, periodi di scambio, oppure basandosi su tirocini o opportunità di collaborazione. Chiaramente se uno decide di venire in Germania dopo aver fatto l'università in Italia, ci sono altri tipi di possibilità con borse di dottorato. Qui esistono dei programmi appositi che sono i Graduate and Colleagues, e sono delle vere e proprie scuole di dottorato basate su un tema che riunisce in un gruppo di ricerca diversi studenti. Altre cose possono essere dei programmi internazionali di cooperazione nell'ambito di progetti di postdottorato. Per quanto riguarda le città più interessanti, le università più interessanti, invece dipende appunto in base a cosa uno si orienta. Sicuramente le grandi città valgono la pena anche al di là della vita accademica, quindi Berlino, Monaco o Amburgo, Colonia e Francoforte su tutte, ma la forza della Germania risiede anche in università medio-piccole che comunque hanno un'ottima tradizione accademica, penso non solo a Mainz ma anche a centri come Bonn, Heidelberg, Tübingen, eccetera, Friburgo. Hai citato, en passant, le borse di studio accademiche sono molto utili per formarsi a questi contenuti, come e dove cercarle? Ecco, le opportunità sono molte e molto varie. Io consiglio senz'altro di guardare il sito del Ministero, del Bundesministerium für Bildung und Forschung, dove c'è una vera e propria banca dati con tutte le borse di studio, soprattutto questo pensando alle borse di studio post-dottorato. Poi un altro tipo di borse vengono offerte anche dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft, si tratta in questo caso di un'organizzazione pubblica per la ricerca finanziata con a livello statale, a livello regionale e permette di finanziare dei propri progetti di ricerca, quindi strutturabili in base a diverse Fragestellungen, quindi a diverse quesiti che possono orientare lo studioso in un determinato campo di ricerca. Altre borse vengono invece rientrano in programmi di studio di ricerca, ad esempio da parte della Leibniz Forschungsgemeinschaft, che è un'altra organizzazione che finanzia soprattutto ricerca non accademica, quindi centri, istituti di ricerca di vario tipo. Grazie a Giacomo Bardelli, abbiamo la nostra domanda a diritto per Tiziana D'Angelo. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Beh, io gli consiglierei di farlo e di farlo al più presto. Job Abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia. Said Yofkar di Eures Italia. Oggi parliamo di un importante evento che riguarda gli ingegneri. Giovedì 30 gennaio, presso la sala edile in zona Fiori 116 a Terni, si svolgerà un convegno sul tema dell'internazionalizzazione della professione dell'ingegnere. L'iniziativa, promossa dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Terni, in collaborazione con il servizio EURES dell'ARPAR Umbria, pone come obiettivo quello di fornire importanti linee guida nonché informazioni amministrative e giuridiche necessarie per lavorare in altri paesi europei, sia per il mondo di lavoratori dipendenti sia per quello di liberi professionisti. In sintesi, la mattina verranno presentati le principali informazioni ed adempimenti che sono necessari dopo un eventuale matching con le aziende europee, ma anche ciò che è necessario fare per un ingegnere per poter esercitare la sua professione come ingegnere, come può muoversi un ingegnere italiano nel mercato unico europeo e che cosa può fare la rete EURES per promuovere la circolazione e la mobilità professionale dei nostri lavoratori. All'iniziativa, oltre alla rete EURES Italia, partecipano anche gli EURES Advisor provenienti dalla Germania, Austria e Olanda. Nel pomeriggio, presso la sede dell'Ordine, proseguiremo con approfondimenti e colloqui tra gli advisor europei e gli ingegneri interessati. Ovviamente, come in tutte queste occasioni, non mancheranno le offerte di lavoro nel settore ingegneria dell'informazione, meccanica, informatica dei sistemi, per telecomunicazione, sviluppatori, eccetera. Troverete tutte le informazioni dettagliate anche sulla pagina Facebook dell'Eures Italia. Per partecipare chiediamo di inviare un CV in inglese entro 28 gennaio all'indirizzo mail eurespg@regione.umbria.it, segreteria@ordingterniter.it. Internet Point. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi vi proponiamo un focus relativo al recente studio della Fondazione Leone Moressa, che ha stimato come 500.000 di connazionali abbiano lasciato il paese per andare oltre confine in un solo decennio. Di questi la metà era under 35. La loro fuga è costata al sistema Italia 16 miliardi di euro. Come si è arrivati a calcolare queste cifre ce lo spiega il ricercatore Enrico Di Pasquale. Questo è il saldo tra le partenze dei giovani italiani, o meglio i 500.000 di tutti gli italiani, poi 250.000 sono i giovani nella fascia 15-34 anni, al netto di quelli che sono rientrati. Quindi possiamo dire che questa è proprio la componente che abbiamo perso, nel senso che si è stabilita all'estero e almeno per il momento non ha intenzione di rientrare. Calcoliamo anche qual è la perdita economica che deriva da questo, stimata in 16 miliardi di euro. Innanzitutto questo dato colpisce molto, proprio perché si parla di una media di 25.000 giovani che all'anno lasciano il paese e non rientrano. Come siete arrivati a stimare invece la perdita relativa ai 16 miliardi di euro di PIL andato in fumo? Allora, questo è esatto il PIL potenziale che questi giovani produrrebbero se fossero occupati oggi in Italia, quindi se rientrassero in Italia, ovviamente ipotizzando la distribuzione, la composizione delle professioni che abbiamo oggi nel mercato del lavoro dei giovani in Italia. Quindi inseriti nel mercato del lavoro produrrebbero circa un punto percentuale di PIL. E questo all'interno di un contesto di paese che sta invecchiando, sta perdendo già di per sé forze giovani e in più le fa anche andare fuori dall'Italia. Voi analizzate però anche le cause di questa uscita, di questa fuga all'estero. Ci può citare le principali? Sì, noi abbiamo analizzato i tassi di occupazione e disoccupazione dei vari paesi europei per quanto riguarda i giovani, in questo caso tra i 25 e i 29 anni, e osserviamo come l'Italia sia maglia nera pressoché ovunque, quindi abbiamo il tasso di occupazione più basso, circa 20 punti percentuali meno della media europea, abbiamo il terzo tasso di disoccupazione più alto dopo Grecia e Spagna, e abbiamo la più alta percentuale di giovani che non studiano e non lavorano. Guardando i flussi, avete fatto anche uno studio relativo ai paesi dove si va e alle regioni da cui si emigra? Sì, le mete principali sono Regno Unito, Germania e altri paesi europei come Francia e Svizzera. Per quanto riguarda la provenienza è abbastanza variegata, nel senso che le prime regioni di partenza sono Lombardia, Sicilia e Veneto, quindi appunto coprendo quasi tutta la penisola. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.fondazioneleonemoressa.org. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. E ricordate soprattutto di scaricare i nostri podcast. Lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte, ma proprio tutte, le informazioni che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da regalare? Scriveteci generazionemobile@radio24.it. E infine la nostra trasmissione vive soprattutto, dobbiamo dirlo, grazie ai nostri testimoni. Sono giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia e soprattutto regalare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.